La negazione della filiazione. Il male andrebbe considerato sempre insieme all'onnipotenza del Creatore, capace di trarne del bene, come è evidente nella croce di Cristo, sommo peccato che diventa morte della morte e salvezza degli uomini. Così, nella Genesi stessa, appena Adamo pecca, Dio, che passeggiava nel paradiso alla brezza del giorno, lo cerca. Mentre l'uomo si nasconde, provando vergogna della propria nudità e quindi della propria identità, Dio chiama: «Dove sei?». Questo grido continua a riecheggiare in tutta la storia nel cuore di ogni uomo che si allontana dal Creatore ed è cercato dalla misericordia del Padre. In Genesi 3, questa vittoria del bene, già presente fin dal primo momento in cui il peccato è commesso, è legata alla promessa che la discendenza di Eva schiaccerà la testa del serpente. Genesi 3,15. Promessa che la tradizione ha visto realizzata in Cristo e Maria. Il peccato, dunque, non è Dio che si allontana dall'uomo, ma piuttosto il contrario, cioè l'uomo che si nasconde da Dio. E il Creatore permette questo sia per rispettare la libertà della creatura personale, che altrimenti non potrebbe amare, sia perché il male stesso è già vinto dal limite posto dalla sua divina misericordia, come ha mostrato Giovanni Paolo II in Memoria e Identità, testo nel quale significativamente riconduce le tragedie causate dai totalitarismi del secolo XX proprio al rifiuto della verità della creazione. La misericordia divina salva dal peccato e nello stesso tempo lo rivela. Infatti, ogni uomo ha in se stesso la tendenza al male, ma se non sa di essere perdonato non riesce nemmeno a riconoscersi colpevole. Per questo l'uomo normalmente reagisce al male scaricando la colpa su dei capri espiatori, figure presenti nei miti e nei riti di tutte le religioni antiche e nella quotidiana esperienza della vita di ciascuno. René Girard ha messo in evidenza questo meccanismo mostrando come la Sacra Scrittura rappresenti un unicum nell'ambito della letteratura antica, in quanto da Abele fino a Cristo e poi al protomartire Stefano e all'esperienza di Paolo viene dichiarata l'innocenza della vittima e la colpa dei persecutori. Si pensi ai Salmi, che presentano il punto di vista del giusto perseguitato, capro espiatorio sottoposto a un vero e proprio linciaggio. Questa figura è prefigurazione della passione di Cristo, vittima per eccellenza che, a differenza degli altri capri espiatori, si offre volontariamente, svelando il meccanismo perverso che scarica la colpa su un singolo individuo. Solo nella Bibbia, fra tutti i testi antichi, appare il punto di vista della vittima innocente, grazie alla presenza del perdono e della misericordia divini. L'uomo tende dunque a cercare la fonte del male fisico nel male morale, ha bisogno del colpevole. Ciò accade perché l'uomo percepisce che non c'è solo il male fisico, ma che ancora più terribile è il male morale. Questa dialettica tra male fisico e morale rende il mistero del male ancora più arduo. Il fatto che un nostro simile faccia o ci faccia del male implica che anche noi possiamo fare del male. Il problema del male non può dunque risolversi fuori di noi, ma in un certo senso risiede in noi. Invece, la vera natura del male deve ricollegarsi al desiderio di conformare il mondo a noi stessi, cioè alla volontà di potenza, che si oppone al vero desiderio dell'uomo che sempre ricerca il senso. Ma poiché il senso è la filiazione che rinvia al Padre, la tentazione di risolvere i problemi da soli con il dominio e la potenza si traduce nella negazione del dono e quindi nell'impossibilità di trovare il senso stesso. E ciò non riguarda un fatto isolato, ma costituisce una condizione in cui l'uomo si trova, cioè quell'inclinazione al male che è il peccato originale. Questo stato è percepito dalla riflessione sia filosofica che teologica di tutti i tempi. Storicamente tre sono state le soluzioni principali elaborate per spiegarne l'origine. Esse identificano la fonte del male con 1. La società, ad esempio in Rousseau con la sua teoria del buon selvaggio, oppure in Sartre, che identificava gli altri con l'inferno. Questa visione inverte il rapporto tra causa ed effetto, confondendo il livello gnoseologico con quello ontologico. 2. La materia, secondo la concezione metafisica antica, che ha caratterizzato il platonismo e il dualismo gnostico. 3. La volontà pervertita, soluzione propriamente cristiana, fondata sull'affermazione della bontà della creazione e sulla libertà dell'uomo di opporre il proprio Logos al Logos figlio del Padre. Paradossalmente, scoprendosi portato a peccare, individuando in sé la fonte del male, l'uomo può liberarsi dalla paura. La dottrina sul peccato originale è profondamente ottimista, perché dice che la responsabilità totale del peccato non è del singolo, e perché afferma che il male non è in lui ontologicamente costitutivo, cioè che Dio è più forte del male e che proprio perché l'uomo è creato e voluto può superare la tendenza al male che ritrova costantemente in sé. La rivelazione cristiana permette di eliminare completamente la possibilità di una fonte ontologica del male, di un demiurgo, di un drago cattivo. Il fatto che l'uomo è libero vuol dire che l'uomo può cambiare il senso del male, che può amare. Per i greci il peccato era invece solo la marteia, errore del bersaglio, sbaglio intellettuale. L'unica causa possibile era l'ignoranza. Una persona correttamente educata non poteva peccare. Per la scrittura, invece, il peccato è estremamente più serio e profondo. Non è un mero sbaglio, ma è la rottura volontaria dei legami affettivi tra creatura e creatore. Oltre all'intelletto entra in gioco la volontà. Paradossalmente, mentre per i greci l'ignoranza causa il peccato, per i cristiani essa lo può scusare. Peccato si dice in inglese sin, in tedesco sünde. Entrambi provengono dalla radice dividere connessa al diaballo già visto. Teologicamente ciò si figura come rottura della relazione con il Padre, come rifiuto della creazione in quanto dono. È importante sottolineare che il peccato originale non è una nuova dottrina filosofica per spiegare il male nel mondo, ma è una dottrina rivelata, frutto dell'incontro dell'uomo con Dio, anche se Gilbert K. Chesterton diceva che era l'unico dogma che poteva accettare senza bisogno della fede per l'estrema evidenza della realtà da esso indicata. Di fronte al male, la difficoltà non è mai individuarne i sintomi, cioè farne la diagnosi, ma risalire alle cause e quindi curare. Il punto è che esso non consiste in qualche cosa, ma è assenza di qualcosa, privazione di bene, come il freddo e il vuoto. Per comprendere l'assenza bisogna trovarsi di fronte alla natura proprio di ciò che manca. Per questo il Salmo 35,10 dice che alla tua luce vediamo la luce. E per questo i santi si riconoscono peccatori. All'uomo in peccato risulta più difficile comprendere il bene, come ad un cieco comprendere chi gode della bellezza dei colori. Solo nella luce di Cristo, quindi, si rivela la realtà del peccato. Lui e Maria sono coloro che più sanno cosa sia. Ciò significa che nello stesso tempo in cui si vede il peccato, si è trovata anche la via per uscirne, e questa via è Cristo. Per questo il peccato originale si può cogliere in pienezza solo con il Nuovo Testamento. Se è vero che nella Genesi se ne trovano già gli elementi fondamentali, tuttavia solo a posteriori, alla luce del Figlio incarnato che redime, si può comprendere veramente cosa è successo, solo alla luce della rivelazione del dono della filiazione. Tutto l'Antico Testamento deve essere letto alla luce del Nuovo. È la redenzione che spiega il peccato e non viceversa. Non si può comprendere Genesi 3 solo con lo studio comparato delle altre religioni o con un'analisi storico-critica. Il Catechismo, al numero 388, dice: «Bisogna conoscere Cristo come sorgente della grazia, per conoscere Adamo come sorgente del peccato». I padri, Agostino e poi Tommaso, seguono tutti questa linea. La luce nella quale tutto diventa visibile è lo Spirito Santo che porta a Cristo. È Lui che convince il mondo quanto al peccato. Giovanni 16,7-8. Per questo uno dei testi più significativi sul peccato è la Dominum et Vivificantem, l'enciclica di Giovanni Paolo II dedicata alla terza persona della Trinità. Qui si afferma che il peccato presuppone il rifiuto, o almeno l'allontanamento, dalla verità contenuta nella parola di Dio che crea il mondo, numero 33. Si tratta di abbandonare il Logos, la fonte di senso, cioè il verbo del Padre attraverso il quale si esprime l'amorevole onnipotenza di Dio. Il peccato tocca il centro vitale della Trinità e solo da lì si può veramente intuire in cosa consista. È proprio lo Spirito a convincere quanto al peccato, perché Lui è il dono in persona, in quanto amore che unisce il Padre e il Figlio. E il peccato è essenzialmente rifiuto del dono e dell'amore. Dunque, alla radice del peccato umano sta la menzogna come radicale rifiuto della verità contenuta nel verbo del Padre, mediante il quale si esprime l'amorevole onnipotenza del Creatore. L'onnipotenza ed insieme l'amore di Dio Padre, Creatore del cielo e della terra. Dominum et vivificantem 33. L'uomo ha sempre la tentazione di superare i limiti stabiliti da Dio tra male e bene, la tentazione cioè di stabilire da sé il senso della propria vita e ciò che è bene, mentre il Logos gli viene da fuori. Il senso è un dono che egli riceve. Alla luce di ciò, la coscienza umana assume una dimensione cristologica, poiché essa è come lo specchio del Verbo a immagine del quale siamo stati formati, specchio del dono della filiazione. Il demonio, tentatore e omicida, sovverte, mettendosi al posto di Dio e diventando un antiverbo, un antisenso, negando il dono. Il peccato afferma che la creazione è una disgrazia e che il mondo non dovrebbe esistere, afferma che è male ciò che è bene, essenzialmente distrugge. Se la relazione tra Dio e il mondo è una relazione d'amore, allora il peccato è, secondo la magnifica formula agostiniana, amore di sé fino al disprezzo di Dio, dove il problema non è l'amore di sé, ma la dialettica che porta al disprezzo di Dio. Lo Spirito della verità, invece, ci ricorda costantemente che veniamo dall'amore del Padre, che siamo da Lui amati come corpo del Figlio, cioè come il Figlio. Ci aiuta ad accettare la nostra situazione di creature. È essenziale che ci sia questa infinita sproporzione tra noi e Dio, perché solo così la relazione è veramente d'amore. È essenziale ricordare che lo Spirito agisce dentro, che è Dio e che cambia il cuore. Ci convince che siamo peccatori, ma nello stesso tempo ci fa scoprire l'amore di Dio e ci salva. L'amore è in noi e ci porta all'amore, da dentro, e con forza divina, con quella forza che ci ha creato dal nulla e che ci può ricreare. Trasforma il dolore, anche l'insoddisfazione rispetto a noi stessi, anche l'insoddisfazione per non riuscire ad amare ed essere fedeli come vorremmo, trasforma tutto in amore salvifico. Il peccato, come offesa a Dio, penetra in un certo senso nel cuore stesso dell'ineffabile Trinità, Dominum et vivificantem 39, ma da questo dolore sgorga l'amore, come dal cuore di Cristo trafitto sgorgarono il sangue e l'acqua, così che l'amore si può rivelare più forte della morte, del peccato, perché prevalga il dono. Dominum et vivificantem 39.